Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chi saluta, io o tu? Salutami tu. Allora, buongiorno Nicoletta, tutto bene? Molto bene, grazie. Abbiamo una puntata impegnativa stamattina. Ce la faremo. Qua? Allora, qua o sono le cuffie mie che sono... Che cosa sta succedendo, Carmelo? Guarda, il volume è regolare come sempre, non so. Deborah fischia, dai, no, bisogna... Non lo so. No, guarda i livelli. Perfetto. Dove stanno, sono come a livello di sempre. Vedi che Carmelo ha messo tutto a posto. O Marco gli ha portato stamattina un caffè con il ginseng e quindi mi è partito con il mixer eccitato. Beh, comunque sai che a proposito di caffè abbiamo fatto dei video molto carini con il dottor Berrino. Brava, che perché anch'io ne avevo una sul caffè. Brava, è stato ieri nostro ospite e gli abbiamo chiesto anche quali sono le indicazioni per chi vuole mangiare la carne, oltre a darci le dosi, non bisogna superare il mezzo chilo di carne alla settimana, parliamo di carne rossa, ma ha detto tanta verdura e soprattutto finite con un bel caffè perché è ricco di antiossidanti. E noi compensa, il caffè, quindi. L'abbiamo preso e siamo tutte antiossidate. E però c'è qualche fermento sui prezzi del caffè per un andamento un po' anomalo, delle quotazioni delle materie prime, persino il Brasile sembra essere costretto ad importarlo, dobbiamo leggere con attenzione questo andamento. Tra l'altro, hai visto che il Brasile ha pure tagliato il carnevale. I carnevali, è in crisi economica, dovremmo occuparcene nei prossimi giorni. Dai. Benissimo, in tutto questo intanto direi che sono le 10.33, stranamente presto, oggi non vorrei esagerare con tutti questi minuti a disposizione del nostro programma. Partiamo subito con la rassegna stampa. Ho capito io perché non funziona qua, perché credo di essere... No, guarda, c'è qualcosa che non funziona. Oggi poi controlliamo, Carmelo, perché qua il mix tra il mio microfono e la cuffia appunto non va bene. Detto questo, partiamo un po' con l'andamento di borsa. Allora, Milano stamattina è piuttosto indecisa come le altre borse europee, perché sono partite sulla parità, poi hanno azzerato tutto. Milano è andata in negativo, adesso è positiva più 0,16%, Parigi più 0,14%, Francoforte guadagna ben mezzo punto e Londra invece è negativa per lo 0,21%. L'Asia contrastata, stamattina l'Hang Seng di Hong Kong meno 0,86%, adesso massimo Marco mi hai abbassato tutto e quindi credo che fosse, eccolo lì, e questo è il motivo per cui non funziona, perché quello è il mio cursore, scusate ma state assistendo in diretta a prove tecniche di funzionamento microfono cuffia. Per quello che riguarda la borsa, ieri abbiamo avuto una seduta interlocutoria per le borse europee perché sono rimaste anche un po' così indecise in attesa della riapertura oggi delle contrattazioni a Wall Street. Ieri il mercato americano era chiuso per il President Day e poi c'è stata l'importante riunione dell'Eurogruppo chiamato ad affrontare il dossier Grecia. Il presidente Dijsselbloem ha annunciato che i ministri finanziari hanno raggiunto un accordo per preparare un'intesa, chissà che sarà definitiva o meno, con la Grecia, sottolineando che l'attenzione non sarà più rivolta solo all'austerità ma sarà spostata anche sulle misure sociali a sostegno della crescita e dell'occupazione, prima che la Grecia diventi di nuovo motivo di preoccupazione per i mercati finanziari. Ieri appunto da Bruxelles sono arrivate queste rassicurazioni. Tornando intanto a Piazza Affari, vediamo un po' i temi del giorno. Abbiamo Brembo, i freni in rialzo del 2%, Terna più 1,41%, il gruppo ieri ha presentato l'aggiornamento del piano industriale al 2021 che prevede anche una crescita annua del dividendo di almeno il 3%, allineata alla prevista evoluzione degli utili dei principali parametri patrimoniali. Eni più 1,40%, Unipolsai più 1,40%, abbiamo un rialzo di oltre un punto anche per Salvatore Ferragamo, ricordati CNH Industrial. In calo invece abbiamo il Banco BPM, sta perdendo 2 punti percentuali, Unicredit meno 1,33%, siamo alla vigilia della chiusura dell'imponente aumento di capitale, Telecom meno 1, Mediobanca meno 0,8 e oggi frena anche Generali meno 0,6%, ricordiamo che ha rafforzato la posizione difensiva contro Intesa San Paolo. L'euro è in forte discesa sul dollaro a 1,0547, direi che per i mercati al momento è tutto. Allora, un piccolo approfondimento di oggi. C'è una notizia del weekend che ha scatenato sicuramente l'interesse di tutti gli automobilisti. Vogliamo sentire di che cosa si tratta? Ce lo racconta il nostro Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Maurizio, benvenuto, ciao. Ciao, grazie, buongiorno. Sarebbe in arrivo il documento unico per i veicoli al posto degli attuali carta di circolazione e certificato di proprietà. Notizia, dicevamo, divulgata nel weekend, addirittura arrivava da ambienti governativi, e potrebbe essere una misura prevista nella riforma della pubblica amministrazione. Cosa c'è di vero, Maurizio, e che cosa significherebbe appunto questa novità in termini di risparmio per le tasche degli automobilisti soprattutto? Allora, intanto è tanto vero che è previsto per legge dalla riforma Madia già dall'agosto del 2015 e semplicemente il 28 febbraio è l'ultimo termine per attuare questa riforma, quindi siamo anche in ritardo. Tra l'altro c'è stata anche la probabilità, la possibilità che non si attuasse più, che quindi la delega fornita alla riforma Madia decadesse. Adesso sembra che il provvedimento sia in rampa di lancio, c'è questa unificazione dei due documenti che porterebbe a un risparmio di 39 euro, però onestamente mi sembra che la partita sia ben altra. Gli automobilisti, quando per un passaggio di proprietà spendono 3, 4, 500 euro e anche di più, risparmiare 39 euro oggettivamente è poca cosa. Poi peraltro gli archivi resteranno, cioè in che cosa dove sarebbero, a che cosa sarebbero riconducibili, a che cosa sarebbe riconducibile questo risparmio di 39 euro? Al fatto che lo Stato rinuncia all'imposta di bollo sui documenti. Tra l'altro anche questa è una cosa che ancora non è certissima, perché ancora oggi invece nell'ambito della manovra aggiuntiva che dovremo fare presumibilmente entro aprile, si parla di aumentare invece che diminuire l'imposta di bollo. Magari non lo si farà sui documenti automobilistici, lo si farà su altri documenti, però insomma sarà un'operazione che sicuramente complessivamente dovrà essere a saldo zero quantomeno. E comunque ripeto, è un risparmio molto limitato, perché il grande carico fiscale che c'è sulla burocrazia dell'auto è un carico fiscale ed è si chiama IPT, imposta provinciale di trascrizione, va alle province, e le province fondamentalmente ci campano, la loro seconda maggior entrata. A meno che fino a quando non vengono abolite le province, insomma, difficilmente tutta la fiscalità che è a loro vantaggio verrà a sua volta abolita, no Maurizio? Possiamo essere... Però tra l'altro tu puoi abolire le province, ma non puoi abolire per esempio la manutenzione delle strade provinciali, qualcun altro dovrà pur mantenerle, così come le scuole eccetera eccetera, i soldi serviranno e quindi verosimilmente li prenderanno sempre di là, certo. Quindi diciamo che è un falso problema. Il punto vero, la partita vera di questa vicenda riguarderebbe invece l'accorpamento fra la motorizzazione e il TRA, perché sono due registro automobilistico. Esattamente. Sono due enti che in parte, in piccola parte, fanno la stessa cosa, hanno due archivi, quindi con costi separati anche, quindi pochissime sinergie, e una di questi due, che è quello che fa la maggior parte delle cose della motorizzazione, sta affogando, perché con Italia la pubblica amministrazione negli ultimi 15 anni ha dimezzato l'organico, quindi introitare un po' di personale dal TRA poteva essere in qualche modo utile, sapendo fare una buona riorganizzazione. Sembra che neanche questa cosa si faccia, quindi oggettivamente dal punto di vista delle pratiche automobilistiche io mi sento di dire che se le cose restano così come sono state in qualche modo anticipate, la montagna della riforma Madia partorirà il topolino, insomma. No, quindi fammi capire, allora, già tutto questo è contemplato dalla riforma della pubblica amministrazione, la legge Madia, che è la 124 del 2015. Esatto. Questa unificazione, dicevamo prima, tra carta di circolazione e certificato di proprietà si dovrebbe fare entro il 28 febbraio prossimo, La riforma Madia poi dice che occorre riorganizzare un po' il lavoro di PRA e motorizzazione, eventualmente anche creando un'agenzia, quindi un ente superiore, più autonomo, e poi non dice come bisogna fare questa riorganizzazione. Adesso in tutte le trattative che si sono succedute da agosto 2015 a oggi sembra che questa riorganizzazione sarà molto soft, quindi rimarrebbero due enti separati, quindi con una doppia dirigenza e tutto il resto, con doppio archivio. E tra l'altro il doppio archivio è fonte anche di altri disagi per gli automobilisti, cioè quando escono i bolli pazzi mandati alle regioni è anche perché ci sono dei doppi archivi e tutto il sistema di registrazione dei veicoli non funziona. Quindi abbiamo, se le cose restano così come anticipato, abbiamo perso un'occasione per fare una riforma vera. Certo. Senti Maurizio, prima di salutartelo c'è un passaggio che ci hai dato prima e che non mi è ben chiaro. Tu prima ci segnalavi quanto costa oggi effettuare un passaggio di proprietà di un veicolo usato. Si parla almeno di un costo di 300 euro fino ad arrivare a qualche volta a 500 euro. Allora i 39 euro... euro, ma anche di più, perché dipende dalla potenza dell'auto. Possiamo anche superare i 1000. Infatti no, c'è però... Nicoletta che ci stava 820 segnalando... 820 euro per trasferire Fox 2001 da mio padre deceduto a mia madre. Quindi 820 quindi euro. All'interno della famiglia addirittura si deve sostenere un costo di questo tipo... È come se fosse una tassa di successione. Addirittura, dai. Ecco, allora i 39 euro di risparmio di cui parlavamo prima, non ho capito bene da dove sarebbero saltati fuori. Allora. Quando noi facciamo queste pratiche, oltre alla tassa che va alla provincia, ne paghiamo una che va allo Stato sotto forma di imposta di bollo. L'imposta di bollo noi la paghiamo su tantissimi altri documenti, c'è anche su questi. Allora lo Stato ci farebbe, diciamo, la cortesia di rinunciare a queste a questa voce di costo, che però, ripeto, rispetto all'IPT è una briciola. Certo. Maurizio, altre cose da dire a proposito degli automobilisti in ballo in questo momento fra le varie misure previste non tanto dalla riforma Madia ma magari anche dal decreto mille proroghe? Ci sono delle novità da raccontare agli ascoltatori prima di andare ai nostri suggerimenti per chi è in viaggio e passare poi alla rassegna stampa di cuore? Ma la questione calda è quella dei tassisti. Oggi pomeriggio c'è un incontro a rischio e pericolo, introduci l'argomento. Stanno bestemmiando molti automobilisti qui a Roma oggi, perché i tassisti insieme agli ambulanti stanno bloccando il centro e diciamo è la solita giornata di passione romana, insomma. Ecco, infatti anche qua a Milano tra l'altro ieri ci sono state anche delle iniziative da Ferugli appunto piuttosto impegnativi. Benissimo, beh insomma non tanto, vedremo un po' come finirà. Intanto grazie a Maurizio Caprino per essere stato con noi, peraltro tu sei a Roma proprio per seguire un evento sul tema automobilistico. Ma sto cercando di avere notizie proprio riguardo a questa partita dell'unificazione tra motorizzazione, comunque del documento unico, chiamiamola così, e poi seguiremo la questione dei tassisti. Grazie sul Sole 24 Ore. Molto bene, grazie a Maurizio Caprino per essere stato con noi. Andiamo a sentire un po', ecco, il traffico, in che condizioni è in tutta Italia, sentiamo un po' se effettivamente questa nuova giornata di protesta per i tassisti, in particolar modo a Roma e Milano, stanno provocando dei disagi segnalati dalla nostra viabilità. Cuore e denari. Oggi la nostra rassegna stampa, Debora, di salute, passa in rassegna le iniziative che Cuore Denari ha ideato e sta sostenendo per convincere sempre più persone a mettersi in gioco e investire in salute, perché come ripetiamo sempre, ma non è nostra, è di Schopenhauer, la salute non è tutto, ma... Ah, senza salute il tutto è nulla. Bravissima. Mm. Allora, per continuare a stare bene, per mantenere la salute o recuperarla ogni giorno, sintonizzatevi e seguite i consigli dei nostri esperti, perché la salute vi è parlando. Questo è il nome dell'iniziativa che ci vede a fianco degli specialisti di Humanitas. Ogni mese affronteremo insieme a Deborah un tema diverso. Febbraio è il mese della salute e del benessere delle articolazioni, quindi collo, spalle, mani, piedi, gambe, schiena. Il nostro esperto è il professor Carlo Selmi, che chi segue Cuore Denari conosce bene. Potete ascoltare i suoi consigli, le indicazioni sul nostro sito, ma anche per ricevere risposte per il vostro caso. Ogni giorno diamo delle indicazioni, delle pillole di benessere, parliamo ad esempio dei benefici della curcuma, dell'importanza di mantenere il peso forma, dell'utilità degli omega 3, ma anche di trattamenti, meglio caldo, freddo, e del tipo di ginnastica che più piace alle nostre articolazioni, spesso se sono un po' affaticate o usurate dagli anni, che è la ginnastica in acqua. Passiamo poi a un'altra iniziativa che abbiamo lanciato venerdì scorso, era 17, vi ricordate? Allora abbiamo cominciato a fianco della Fondazione Telethon il nostro percorso di avvicinamento alla 10ª giornata delle malattie rare. Noi vogliamo con questa iniziativa parlare di malattie genetiche rare, lo vogliamo fare partendo dalla diretta testimonianza di pazienti, di familiari, di medici, di ricercatori. Allora ogni giorno sulle nostre pagine racconteremo, e stiamo già facendolo, storie di vita e storie di ricerca. Nella pagina trovate la storia di Jessica, di Francesca, di Susan. Andiamo a sentire le storie dei nostri amici più unici che rari. La frase che più mi rappresenta è proprio quella della nostra onlus, che è hashtag tutte giù per terra. Il messaggio del nostro gruppo, che porta avanti il nostro gruppo, è quello di portare avanti il fatto che comunque si ha diritto a vivere, avere una buona qualità della vita anche con una disabilità. La frase che più ci rappresenta è sicuramente: aiutaci a camminare, aiutaci a vivere, insieme possiamo farcela. Anche quest'anno, grazie al progetto Più Unici Che Rari, volevamo dire che anche noi siamo unici per altre persone, perché la nostra rarità può aiutare altre persone. Amo tantissimo una canzone che è tratta dal musical Rent, che si chiama Seasons of Love, e in pratica parla di amore e parla del fatto di come si misura la vita. 525,600 minutes. Eccoli qua i nostri amici più unici che rari. Anche voi però siete invitati a partecipare un po', a fare la vostra parte. Seguiteci, scriveteci, postate i vostri commenti, lasciate un pensiero, un'immagine. Soprattutto mi raccomando, se fate parte o volete segnalarci un'associazione che si occupa di malattie rare, fatelo, siete i benvenuti e noi vi ringraziamo con anticipo. Allora, e chiudiamo consigliandovi caldamente la pagina dedicata a chi vuole smettere di fumare, che come sapete si avvale del contributo del dottor Roberto Boffi del Centro Antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori e della dottoressa Elena Munarini, quindi un clinico, una psicoterapeuta, per aiutarci a uscire da questa che è una vera e propria dipendenza, perché spegnere l'ultima sigaretta è tra gli investimenti in salute più redditizi. Allora proviamo a farlo, lo so che è difficile, ma se state accarezzando l'idea, siete passati alla sigaretta elettronica, chiamateci, raccontateci come sta andando, raccontate, date i vostri consigli o nel caso chiedete aiuto, perché chi smette ci guadagna, su questo non ci piove. Certo non è facile, ma possiamo provare a darci una mano reciprocamente. Allora prova a convincerci anche la nostra dottoressa Garassino. Buongiorno dottoressa, responsabile della struttura di oncologia toracica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora, e complimenti per la trasmissione, soprattutto per l'iniziativa, perché certamente io mi occupo di tumori del polmone dalla mattina alla sera, e la mia sarebbe sicuramente una patologia rara se non ci fosse il fumo, per cui è assolutamente necessario quantomeno provarci. I pazienti non devono, anzi i cittadini non devono sentirsi, come dire, diversi se fumano, ma vanno aiutati. E soprattutto vanno aiutati gli adolescenti, perché le stime dicono soprattutto che in Europa gli italiani, i millennials, quindi i nostri ragazzi, sono dei fortissimi fumatori e rischiano di essere i nostri pazienti del futuro. Di 11 milioni di fumatori che abbiamo in Italia, si stima che almeno 8 milioni abbiano iniziato a fumare in età adolescenziale, quindi dobbiamo in tutti i modi non provare, solo aiutare... Provare a convincere i ragazzi. Dottoressa Garassino, però parlando ad un ragazzo dei rischi del fumo, si rischia di sortire l'effetto opposto. Se poi a sottolinearle è una conduttrice, una giornalista radiofonica, si rischia di essere tacciati di fare la maestrina. Il problema è che in qualche modo noi dobbiamo trovare una modalità differente per arrivare al cuore e alla testa dei ragazzi, ma possiamo aggiungere anche le donne, perché anche noi donne iniziamo a fumare e facciamo molta fatica a smettere. È assolutamente vero, purtroppo anche scrivere sulle sigarette il fumo uccide non ha nessun tipo di impatto sugli adolescenti, anche perché la maggior parte di questi si fanno le sigarette da soli. Mi dà il là perché stiamo lanciando con Women for Oncology un progetto dove i digital influencer saranno direttamente loro a parlare con gli adolescenti per dire che cosa porta il fumo a tutti gli effetti. Probabilmente noi come clinici o probabilmente diciamo la generazione dei genitori non è efficace su questo gruppo di ragazzi che rischia poi nel futuro la vita e tante altre cose, non solo il tumore del polmone. Quindi sicuramente è necessaria una comunicazione su quella fascia di età che non sia quella solamente di dire il fumo uccide, sì, o vi fa non male, funziona, quello non funziona. Comunque non iniziare, dottoressa Garassino, e nel caso smettere al più presto. Noi dobbiamo, esatto, tutti insieme, anche e soprattutto noi chiediamo nella nostra pagina l'aiuto di chi ha smesso di fumare o chi sta fumando, magari sta svapando, sta usando la sigaretta elettronica, perché così l'esperienza delle persone può a volte essere molto più incisiva e arrivare molto di più magari del consiglio del medico, dottoressa Garassino. Sono assolutamente d'accordo. Allora, dei medici cerchiamo di frequentarli il meno possibile e noi cerchiamo di fare il possibile per lasciare il fumo, cacciarlo fuori dalla nostra vita ed evitare di ammalarci. Facciamolo per noi, ma come insegnano tante storie di persone che stanno scrivendo sulla nostra pagina, facciamolo anche per una persona a cui vogliamo bene. Molti hanno smesso, ad esempio, di fumare perché è nato il loro bambino, oppure perché una ricerca ne ha dimostrato gli effetti, è stata fatta una diagnosi di asma al bambino e quindi i genitori sono stati più motivati a smetterlo, perché noi ci dimentichiamo spesso che la malattia della persona diventa poi la malattia della famiglia. C'è tra l'altro un'indagine i cui risultati mi hanno colpito molto, uno studio realizzato da The Economist che dimostra ad esempio che il 40% dei familiari di pazienti con una malattia polmonare poi ha difficoltà a mantenere il proprio lavoro, dottoressa Garassino. Questo è un dato che proprio possiamo dire a cuore denari, dato che noi ci occupiamo di salute, di lavoro e anche di denari, che dimostra quanto sia forte il peso di una malattia, che dietro al malato, di fianco al malato, c'è una comunità di persone, una comunità di persone che da questa malattia vengono colpite nel cuore, nell'anima, ma anche proprio nella vita lavorativa. È così, guardi, come ha detto lei, secondo me si ammala proprio la famiglia, si ammala la famiglia per la sofferenza che avere una persona cara provoca, soprattutto con una malattia come il tumore del polmone, ma si ammala la famiglia in quanto questi pazienti magari fanno fatica a respirare, sono deboli certo, e hanno necessità di accessi frequenti all'ospedale, e chiaramente per quanto in Italia i supporti sociali siano estremamente presenti e anche la società, le varie società di volontariato siano estremamente presenti, la prima persona ad assentarsi è sempre il familiare più vicino, che molto spesso dopo i permessi che sono permessi dalle leggi che permettono l'accompagnamento, il familiare spesso può anche perdere il lavoro o avere problemi sul lavoro. E quindi questi sono dei costi indiretti della malattia, che sono dei costi che vanno comunque considerati. Dottoressa Garassino, la devo salutare, la ringrazio per essere stata con noi, noi andiamo a dare la linea al nostro GR, ritorniamo subito dopo insieme, grazie per l'ascolto, a tra poco. Cuore e denari. Allora, eccoci ritrovati in diretta. Ci capita spesso di leggere dai giornali, di sentire dai telegiornali, dai radiogiornali, appunto, di tragedie che hanno come sfondo storie di dipendenze molto gravi, e la ludopatia è sicuramente una delle emergenze del momento, forse ancora pericolosamente sottovalutato, sicuramente un tema che non guadagna spesso e volentieri la ribalta della cronaca, anche perché, ce lo dicevamo a microfoni spenti con Nicoletta, fino a quando lo Stato ci guadagna così tanto dalle difficile slot machine, dai gratta e vinci e quant'altro, è chiaro che il tema sarà trattato in una determinata maniera, non perché ovviamente lo Stato si metta a fare censure sulle denunce, ma probabilmente magari una campagna da parte del settore pubblico contro tutto questo forse non verrà mai. Detto questo, le implicazioni sociali ci sono gravissime. Il tema Questo problema, la ludopatia colpisce in Italia quasi 1 milione di persone. Pensate che persino il mondo bancario si è chiesto come poter intercettare le persone colpite da questo problema. Proprio qualche mese fa, forse lo ricorderete, avevamo raccontato qui da questi microfoni dell'iniziativa presa da una banca, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che ha messo in campo un'attività vera e propria di ricognizione allo sportello, addestrando anche i dipendenti per individuare appunto comportamenti anomali tipici delle persone cadute nella trappola della ludopatia, gioco d'azzardo e non solo. La banca ha stilato un vero e proprio vademecum, giocatori d'azzardo patologici e servizi bancari, realizzato dall'istituto con la collaborazione dell'associazione Onlus e Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia. Allora, quest'area peraltro sembra essere particolarmente sensibile a questo tema, non sappiamo se sia una buona o una cattiva notizia. Ci si è resi conto che spesso anche la modalità di risparmiare ed investire per qualcuno viene vissuta con un approccio simile all'azzardo. Lo dicevamo nelle anticipazioni, si tenta il colpaccio, si cercano delle occasioni di investimento che ti possono cambiare la vita nel giro di un mese o anche meno, si prova ad investire proprio per rivoluzionare il proprio portafoglio in campi mai sentiti prima. Allora, questo è il tema che affrontiamo oggi e noi partiamo intanto da qualche testimonianza. Sono pensionato, seguo con piacere la vostra trasmissione e vorrei chiedervi, se possibile, di rispondere a un quesito che mi ha posto mio figlio e al quale io semplicemente ho detto di lasciar perdere. La domanda è: cosa sono le opzioni binarie e quanto possono essere pericolosi i siti che ti invitano a operare col loro trading online investendo pochi soldi e promettendo facili guadagni con questo genere di operazioni? Un mio conoscente da un po' di tempo mi sta assillando con questa storia delle opzioni binarie. Sembra che stia diventando un nuovo Eldorado con cui fare fortune immense in poco tempo e stando comodamente seduti sul divano di casa propria. Ho provato a iscrivermi ad una piattaforma e sono stato tempestato di mail, tentativi di contatti telefonici, annunci di cancellazione dell'account se non fornivo il mio numero di telefono per essere contattato personalmente da un incaricato. Sono una donna single con un figlio disabile, con non poche difficoltà economiche, e mi sono lasciata travolgere da queste società di trading che operano sul mercato internazionale, senza licenza, direi. Ho voluto credere. C'era una donna che, devo riconoscere, ha saputo prendermi ed ho spedito loro un sacco di soldi, sognando che sarebbero diventati tanti da potermi comprare una casa. Ora questa tizia è sparita e non mi permettono di ritirare il denaro. Colpisce da queste testimonianze l'utilizzo spesso e volentieri della terza persona di coloro che cercano informazioni. Mio figlio mi ha posto un quesito, un amico mi sta assillando con questo argomento, ma intanto io mi sono iscritto ad una di queste piattaforme, per cui in realtà si attribuisce magari a qualcun altro l'invito, la responsabilità di averti fatto fare una scelta presa invece in prima persona. Allora, intanto grazie e buongiorno per essere con noi ed Enrico Malverti, buongiorno Enrico. Buongiorno. Enrico Malverti è un consulente finanziario, autore di veri e propri bestseller sul tema del trading online e dei cosiddetti trading system, sull'analisi tecnica, ha scritto Trading System e Vincenti, il manuale dei risparmiatori, i segreti del trading system, tutti i libri che bisogna leggere con grande attenzione prima di avventurarsi, per esempio, nel terreno delle opzioni binarie, mondo sconosciuto. Adesso Nicoletta mi guarda con due occhioni così, sì, ma anche io non ci capisco nulla. Opzioni binarie ce le spiegate. Esatto, non sono i binari quelli del treno, ma sono ben altri, appunto, tutti i libri editi da Oepli, con i quali appunto Enrico Malverti, che è un consulente finanziario, appunto, prova a spiegare questi mondi complicati che è bene che vengano frequentati solo da chi ne capisce parecchio, ed è il consulente finanziario che ha pensato di fare questo lavoro di sensibilizzazione sul tema che vi proponiamo questa mattina, organizzando venerdì 24 febbraio appunto a Mirandola, in provincia di Modena, incontro sul tema ludopatie, come contrastarle favorendo un corretto approccio al risparmio. Allora, lo precisiamo con Nicoletta, lo diciamo molto chiaramente, è abbastanza difficile che noi organizziamo delle trasmissioni apposite attorno ad un evento, capita abbastanza raramente, deve avere veramente una rilevanza di un certo tipo appunto affinché noi lo facciamo. Stavolta ci è sembrato utile dare spazio a questa iniziativa voluta peraltro anche Enrico dall'amministrazione locale, no? Com'è nata questa idea, la serata che scopo ha? So che volete fare un po' di luce sul fenomeno dilagante delle scommesse online, spesso camuffate dietro a prodotti finanziari. Segnalo, poi ti lascio la parola Enrico, che le testimonianze che vi abbiamo proposto sono autentiche, sono lettere che ci sono arrivate, non recentissime, ma ci sono arrivate appunto negli ultimi mesi, per cui abbiamo pensato di raccoglierle in questa mail, in questa appunto in questo file unico. Enrico. Sì, è tutto esatto. A me è venuta l'idea di organizzare questa serata per cercare di fare luce sul funzionamento di queste scommesse online, in particolar modo delle opzioni. Enrico, scusami se ti interrompo, sei alla cornetta o stai utilizzando viva voce? Perché ti sentiamo un po' malino, un po' ovattato. Se puoi avvicinarti magari un po' meglio alla cornetta, grazie. Se no proviamo a ripristinare la telefonata, vai. Sì, forse allora è la cornetta che non è... Adesso è un pochino meglio. Un pochino meglio? Sì. Bene. Dicevo che la serata si propone lo scopo di cercare di illustrare al meglio il funzionamento delle opzioni binarie, che sono praticamente delle scommesse camuffate da prodotto finanziario. Purtroppo il fenomeno è in forte aumento online. Io ho una buona visibilità come analista finanziario, lo faccio da tanti anni e probabilmente anche per questo ricevo decine di email di persone che hanno perso e perdono parecchi soldi e poi chiedono la soluzione miracolosa per poter riuscire a recuperare, che purtroppo non esiste. Quindi le mail che abbiamo proposto all'inizio in realtà per te sono un po' pane quotidiano, diciamo? Sì, quasi quotidiano. E quindi c'è bisogno, secondo me, di fare molta informazione, o meglio controinformazione, perché purtroppo su internet dilagano pubblicità ingannevoli e anche i social come Facebook contribuiscono ad alimentare aspettative completamente irrealistiche sulla possibilità di un veloce e facile arricchimento. Per cui in questa serata noi cercheremo di illustrare come stanno realmente le cose, chi è che ci guadagna da questi business online, che purtroppo riescono ad avvicinare sempre più anche i giovani, perché i giovani sono quelli che poi hanno maggiore confidenza con internet, con gli smartphone. E cercheremo anche di illustrare quelle che sono le truffe più ricorrenti ai danni dei risparmiatori e come cercare di approcciare correttamente invece gli investimenti finanziari in un periodo che comunque è particolarmente difficile, bisogna dirlo, certo, per gli investimenti in cui i tassi sono a zero, esatto, e si cerca di guadagnare qualcosa in più. Peraltro adesso sentiremo anche cosa può dirci un trader, oltre che docente all'Academy appunto della Borsa Italiana, Luca Barillaro, che fra un po' salutiamo. Però Nicoletta, affronteremo tutto questo argomento anche da un punto di vista molto delicato. Sì, affronteremo anche dal punto di vista della salute, entreremo un po' nella mente di chi sceglie di azzardare, è attratto dal rischio, lo facciamo con un grande esperto, perché il confine tra gioco e azzardo è molto labile e bisogna capire fino a quando e quali sono le caratteristiche che trasformano questo nostro comportamento in una dipendenza. E in linea con noi abbiamo Vincenzo Marino, che è psichiatra e psicoterapeuta, dirige il Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL di Varese e ha scritto un libro edito da Franco Angeli che riassume un po' nel titolo anche quello che noi vorremmo raccontare nella parte dedicata un po' alla salute: la vita in gioco, il gioco d'azzardo tra divertimento, ecco, e problema. Mm-hmm. Al posto del divertimento c'è il desiderio di guadagno, esatto, in questi casi. Dottor Marino, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Mai le sarebbe venuto in mente nella sua lunga vita professionale di occuparsi di opzioni binarie. Invece eccola qua. Anche noi, per dire la verità. A cuore denari parliamo perché di uno psichiatra pensato di opzioni binarie. Riusciamo a fare anche questo? Professore. Bene. Dottor Marino, il confine è molto labile. C'è qualche cosa che ci scatta, che scatta dentro la nostra testa e nella testa in particolare di qualcuno, che dice o la va o la spacca, il rischio mi alluzza, mi alletta, mi attrae. Sì, sicuramente diciamo che al di là dei fattori socioculturali, l'attrazione che il gioco d'azzardo esercita sull'essere umano si fonda su precise basi biologiche. Questo perché il gioco d'azzardo è in grado, diciamo, di appagare un bisogno fondamentale scritto nel nostro sistema nervoso centrale dall'evoluzione, che è quello di vincere, l'attrazione della sfida, dell'affermazione. Quindi quando noi sperimentiamo un successo lavorativo, sportivo, affettivo, nel nostro sistema nervoso centrale si liberano delle sostanze che producono euforia. La ricerca di queste emozioni attraverso il gioco d'azzardo può prenderci la mano e trasformarla piano piano in una vera e propria dipendenza. A proposito di basi biologiche, tanto così per far vedere che leggiamo anche i giornali. Davvero? Ecco, la mattina? Ma dai! Sul Corriere di oggi. Non ti fai un solo articolo, le unghie. No, mi pettino anche. C'è un articolo molto bello del professor Remuzzi. Giuseppe Remuzzi, che commenta questo articolo che è uscito su Nature, che dimostra quanto anche la nostra capacità di imbrogliare abbia basi biologiche. Più imbrogliamo, più in qualche modo il nostro cervello così si abitua e diventa più tollerante, e questo probabilmente funziona e si organizza anche in altre forme di situazioni. Il dottor Marino parlava dell'azzardo, ma chissà, magari anche nei confronti della violenza. Quindi meditate. Allora, intanto volevo tornare al tema di questo benedetto, maledetto investimento nelle opzioni binarie, e dicevamo prima che molto spesso si tratta di vere e proprie scommesse online camuffate dietro a prodotti finanziari. Allora, Luca Barillaro, dicevamo prima, un trader indipendente, docente all'Academy del London Stock Exchange, quindi borsa italiana, consulente ed esperto di questi temi. Però lei investe o comunque conosce questo terreno perché direttamente fa i suoi investimenti appunto in questo campo, no? Barillaro, adesso non è Buongiorno. Che voglio metterla in difficoltà intanto. No, no, beh, innanzitutto bisogna precisare che le parole investimento e opzioni binarie sono da tenere ben lontani. Non si possono affrontare nella stessa frase. Le opzioni binarie non hanno nulla a che vedere con l'investimento. E come anche la recente pronuncia Consob del 17 febbraio ha precisato, sono contratti che hanno una struttura e quindi rischi simili a quelli di una scommessa, quindi sono a tutti gli effetti scommesse. Quindi le utilizza è un giocatore d'azzardo. Ah, ecco, a tutti gli effetti. Per cui un trader come per esempio anche Malverti o lei, poi lo chiedo direttamente a lui, vi cimentate nella scommessa su questo terreno, oppure lei Barillaro li conosce e basta, perché prova anche proprio a fare lavoro di educazione tra chi vuole cimentarsi nel trading online per provare a far capire che deve star ben lontano da questo mondo? Ma sicuramente l'opera che stiamo facendo insieme all'amico e collega Enrico è quella di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti, non solo i privati, ma anche e soprattutto a livello istituzionale, sensibilizzare tutto il settore su un tema che sta diventando una piaga. Quindi noi le studiamo per capire come contrastarle, come far capire anche al pubblico più ampio, in parole semplici, il perché non ci si debba esporre a questo tipo di rischio. Ottimo, ci fa capire come funzionano. Allora, io ho a disposizione 100 euro, anzi le divido con Nicoletta, 50 io e 50 Nicoletta, perché così sempre, mi tira sempre in ballo. Dividiamo il rischio. Cosa succede se compro un'opzione binaria? Cosa significa comprare, ammettendo di aver avuto l'incauta idea di sottoscrivere un account appunto presso una di queste piattaforme, che sono delle truffe, come dicevamo, speriamo di non ricavare oggi qualche denuncia da parte di qualcuno. Detto questo, poi appunto Barillaro, esattamente, poi dopo vado come hanno fatto quelli là, sì, esatto, le arance e un lenzuolo. Allora, ci spiega esattamente come funziona? Intanto c'è da dire che la parola opzione è anche questo improprio, in quanto l'opzione solitamente è un contratto che può essere finanziario o non, ma è un contratto che dà diritto ad acquistare o vendere un determinato bene entro una certa data a un determinato prezzo. Qui non si compra e non si vende nessun bene, qui si scommette semplicemente sulla binarietà di un evento, cioè un evento succede o non succede entro un certo periodo temporale. Quindi io punto i miei 100 euro esattamente come se puntassi sulla vincita di un cavallo ad una corsa rispetto ad un altro. O sul rosso o sul nero, come la vogliamo vedere. Ecco. Ovviamente il campo dei miracoli non esiste, di collodiana memoria, e quindi gioco forza, gli offerenti questi tipi di prodotti pseudo finanziari, che sono solo un po' più, diciamo così, chic da un punto di vista di marketing, perché invece di dire ho provato a guadagnare o a vincere 100 euro puntando sul rosso e sul nero, l'ho fatto puntando ad esempio sull'euro-dollaro, questi offerenti ovviamente prezzano le probabilità che i diversi eventi si verifichino o meno in maniera asimmetrica, e cioè prendendo le probabilità dalla loro, esattamente come fa il casinò quando si punta sul rosso e sul nero, ma c'è anche lo zero che non è né rosso e nero, quindi mette le probabilità dalla parte del casinò. Allora, un grande problema, peraltro, ovviamente vedo qualcuno che già ci scrive al 349-238-6666. Io vorrei anche, se volete, invitarvi a rilasciarci le vostre testimonianze se vi siete imbattuti in una situazione di questo tipo. Avete fatto anche fatica magari a denunciarla, perché spesso, tema certo, che affronteremo con Nicoletta, lonta ovviamente alla meglio su tutto, e si ritiene anche di aver magari perso del denaro perché si è fatto un investimento sbagliato, e magari perché il broker truffaldino al quale ci si è rivolti ci dice: guarda, purtroppo non posso ridarti il denaro, non hai guadagnato nulla perché l'investimento è andato male, esattamente come se si fosse investito in un'azione che perde per un determinato periodo di tempo. Invece dobbiamo ben tenere presente che spesso, appunto, ci sono delle truffe che si possono denunciare dietro queste situazioni, anzi spesso nella stragrande maggioranza dei casi, per cui affronteremo anche questi aspetti. Per cui, se ci volete raccontare, se voi o volete parlare per interposta persona, un vostro amico, un vostro conoscente ha avuto una malaugurata, appunto, esperienza di questo tipo, se volete raccontarcela, noi siamo qua all'800 24 00 24. Prima di ridare la linea a Nicoletta, volevo sentire un attimo di nuovo Enrico Malverti per chiedergli se nei suoi libri dedica anche dei capitoli a questo tema, la scommessa nell'opzione binaria, visto che il termine investimento non lo possiamo usare, esattamente come noi raccomandiamo sempre di non usare mai il verbo giocare quando si parla di investire in borsa, no? Perché anche questo è un tema, è un abbinamento sbagliato a nostro giudizio. Malverti. Non ho mai trattato le opzioni binarie, non le utilizzo per la mia attività di trading, di investimento. Ne sconsiglio l'utilizzo, o quantomeno un utilizzo consapevole, nel senso che è una scommessa, come diceva anche il collega Barillaro. Secondo me è improprio definirla una truffa, perché è un prodotto finanziario camuffato da scommessa, però o una scommessa camuffata da prodotto finanziario, forse è il contraio. No, forse è più una scommessa camuffata da prodotto finanziario che il contrario. Scusa, da prodotto finanziario, ma è improprio definirla una truffa, perché bisognerebbe a quel punto definire una truffa anche il casinò. Certamente la possibilità di vincere sono a sfavore, quindi sono maggiori le probabilità di perdere che non quella di riuscire a guadagnare giocando con continuità. Ma insomma, qualcuno ci guadagna ogni tanto? Ma è come andare al casinò, cioè le probabilità di guadagnare ci sono se c'è il colpo di fortuna nel breve termine, però giocando con continuità alla fine il banco vince sempre. Dottor Marino, ma invece la persona, il giocatore racconta sempre di grandi vincite, il giocatore quando si racconta non perde mai, è un tratto proprio caratteristico? Attenzione selettiva nei confronti degli eventi favorevoli, e consideriamo quelli sfavorevoli degli incidenti di percorso che preludono alla vincita successiva. Questo perché è l'emozione della vincita quella che dà in qualche modo la botta, diciamo, di euforia. Insomma, il giocatore problematico è uno che preferisce le emozioni legate all'attesa del risultato e all'esito del gioco rispetto alle emozioni della vita di tutti i giorni, e quindi finisce per progressivamente disinteressarsi della vita reale per vivere sempre di più in quella virtuale del gioco. Deborah ha sottolineato appunto l'impegno, raccontando l'iniziativa della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, di individuare proprio a partire dallo sportello dei comportamenti anomali tipici delle persone che cadono in questa trappola della ludopatia, il gioco d'azzardo, ma non solo. Dottor Marino, ma la stessa cosa naturalmente possiamo declinarla dal punto di vista della salute. Quando il piacere del gioco, il piacere del rischio che lei ci ha raccontato ha delle basi biologiche, diventa dipendenza, quali sono i segnali? Perché spesso si arriva tardi e si scopre che il nostro familiare, nostro cugino, il nostro collega sono rimasti invischiati in questa trappola, e noi cadiamo sempre un po' dalle nuvole e poi rileggendo i comportamenti dice ah ecco lì vedi mi aveva detto, aveva fatto. Si può individuare? Sì, sicuramente diciamo che all'inizio il giocatore tutto sommato vive la cosiddetta fase vincente, quindi è molto concentrato sulle vincite e quindi è abbastanza euforico, abbastanza sociale, abbastanza aperto. Però siccome le probabilità, come veniva evidenziato, sono sempre a sfavore del giocatore, più il giocatore gioca più inevitabilmente comincerà a perdere, e quindi i segnali che possono essere colti sono soprattutto relativi a questa seconda fase e riguardano l'aumento ingiustificato del bisogno di denaro, di cui i familiari si accorgono, l'isolamento dagli altri membri della famiglia, la presenza di sbalzi d'umore che va dall'irritabile scontroso, poi al momento invece di euforia, di vivacità, quando c'è l'occasionale vincita, cominciano le alterazioni del sonno, dell'appetito. Insomma, ci sono dei cambiamenti di comportamento, della perdita di interesse per il lavoro, lo sport, le altre attività, insomma, prima favorite, proprio perché il gioco diventa progressivamente più oggetto dell'attenzione e che viene polarizzata a scapito delle normali attività di vita. Allora, Deborah, adesso? È tempo di raccontare la giornata di borsa. Dove quella, non si gioca. Quella, esatto, ma si investe, ha proprio rischio e pericolo. Naturalmente se non si diversifica adeguatamente, se non si conosce bene anche tutte le regole che sono chiaramente sottostanti all'investimento sul mercato azionario. Detto questo, intanto vi racconto quello che succede oggi. Eccoci qua con i mercati finanziari. Oggi veramente la tecnologia ci viene un po' addosso, ci viene contro. Detto ciò, pur senza sigla di borsa, abbiamo un rialzo oggi di Piazza Affari dello 0,4%, sono in rialzo anche Francoforte più 0,48%, Parigi più 0,08%, Londra rimane ancora in negativo dello 0,28%, borse europee che hanno parzialmente rialzato la testa dopo la diffusione degli indici PMI che testimoniano una congiuntura europea in netta ripresa. Piazza Affari, migliori titoli Brembo più 2,22, Eni più 1,75, un rialzo di 1,5% per CNH Industrial, Unipol 6 più 1,30, mentre in negativo abbiamo il Banco BPM che perde il 2,58%, un punto di ribasso per Unicredit alla vigilia della chiusura dell'aumento di capitale, Telecom Italia meno 1,29. L'euro a 1,0535 sul dollaro. Noi torniamo subito, se abbiamo la sigla, con Cuore e Denari. Se no cantiamo noi. Cuore e Denari. Rosciani Menagrama, mi scrive un ascoltatore, chissà perché, forse perché proviamo a scoraggiare in ogni modo, vabbè, il gioco d'azzardo mi sembra il minimo sindacale, ma anche tutto ciò che attiene all'avventurarsi nel mondo finanziario con lo stesso approccio del gioco d'azzardo, cioè il voler fare un investimento spericolato con l'idea di moltiplicare il rendimento atteso. Oggi intanto in questa epoca di tassi a zero non c'è niente che renda in maniera miracolosa miracolosa, non c'è mai stato nulla che rendesse in maniera miracolosa, oggi questo è più che mai vero, figuratevi se trovate qualche sito internet che vi prometta appunto no, il miracolo della moltiplicazione dei pani, pesci e soldi sotto, esatto. No? Come la dieta che in un giorno ti promette i di sette perderti chili, no, come quelli perder... che vanno in palestra adesso no. E pensano appunto che cominciando a maggio per luglio diventi Claudia Schiffer, parlo sì. Dei sei famosi 7 kg in 7 giorni. Noi da anni che ci stiamo preparando esatto. Per diventarlo. Senza alcun risultato. Detto questo, questa mattina ci sono tanti ospiti con noi. Enrico Malverti, consulente finanziario, che si è fatto promotore di un'iniziativa che è prevista appunto per venerdì sera a Mirandola proprio su questo argomento. Si parlerà di ludopatie, come contrastarle favorendo un corretto approccio al risparmio. Con lui ci sarà anche Luca Barillaro, che è il nostro trader indipendente di questa mattina, docente all'Academy del London Stock Exchange, che ci sta proprio raccomandando di stare assolutamente lontani da queste scommesse finanziarie che sono le opzioni binarie. E volevo farti sentire, Nicoletta, e salutiamo anche il dottor Marino, assolutamente, che è psichiatra, psicoterapeuta, che ci sta un po' supportando. Chissà se ha mai avuto tra i suoi pazienti tanto non violiamo naturalmente il segreto professionale, bravo. Dottor Marino, una persona che è venuta da lei proprio perché, adesso non so se ha puntato sulle opzioni binarie, che poi, ma insomma è rimasto indischiato. Ma basta anche per esempio le valute, derivati, insomma mondi molto distanti da noi. Oltre che la persona magari legata a una sorta di dipendenza al tavolo verde, al gratta e vinci, al slot machine, le è mai capitato di... Sì, sì, mi è capitato su sollecitazione di familiari di una persona che aveva fatto, diciamo, degli investimenti che in realtà erano degli investimenti estremamente rischiosi, che lo hanno portato a compromettere gravemente l'economia della famiglia. Non sono mai riuscito ad approfondire bene con la persona, che su questo era un pochino reticente, la natura di questi investimenti, però certamente dal tipo di esito sembrano molto vicini a quelli di cui stiamo parlando. Allora, il tema importante è che oggi naturalmente avendo la possibilità di fruire di internet, in quel mondo si trova di tutto. Sentiamo Enrico dalla provincia di Rimini. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo dirvi quello che mi è capitato. Praticamente avendo diverso tempo viaggiando in treno, ho sfogliato YouTube e praticamente venne fuori opzioni binarie e con tanto di diagrammi, interviste di persone, e da quello che risulta non sembra essere una scommessa di oggi, lo prendo, anche se qualcosa mi puzzava, perché di questi tempi, queste vincite, questi guadagni vedi miracolosi, è proprio da campo dei miracoli. Vedi che questa lapsus. Però è molto allettante, perché se uno ne guarda solo due o tre, la prendi per buona la cosa. Poi inizi a guardare, dopo ci sono altre Enrico, voci. Enrico, ma lei perché, come mai era capitato su questi siti? Si era lasciato attirare anche lei dalle facili promesse, dalle promesse di facili guadagni? Allora, intanto io sono uno psicologo, non è facile, non, economicamente non è facile il periodo che viviamo oggi di investimenti, una cosa o un'altra, non è facile, quindi con le rendite che ti possono dare nelle poste o con altri vincoli sono molto bassi, è allettante questa cosa che ti promettono. Ma soprattutto viene venduta come tutta un'altra cosa, venduta, non parlo neanche venduta, perché non... Proposta, non si parla, certo. Proposta. Enrico, allora guardi, anche noi abbiamo fatto un giro su internet, le faccio sentire che cosa abbiamo raccolto. Ben trovati, amici. Sono Paola e sono contenta di ritrovarvi qui con me. Spero più ricchi di prima. Oggi vi mostrerò la strategia martingale con ricarico sul rilancio del 27%. Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video per condividere con voi un metodo incredibile che ho trovato per guadagnare soldi da casa. Mi raccomando, badate bene a impostare il trading su opzioni binarie a 60 secondi. Investite il vostro euro nella direzione desiderata. Mi direte, dopodiché, come faccio a vedere su un time frame di 5 secondi se il trend è rialzista o rialzista? Molto semplice. La mia storia opzione binaria nasce quasi 2 anni e mezzo fa, non trovando lavoro come idraulico. E come vedete, Io non ci credevo perché è un metodo incredibile e fa veramente guadagnare tantissimo. Tu non trovi lavoro come idraulico, che cosa fai come prima cosa? Investi, certo, nella strategia del martingale, mi pare. Ma certo. Certo. Barillaro, no. Ma di che cosa si stava parlando in questi... Ti sei lasciata da... No, mi colpiva molto il tono di voce, della signora, che l'hanno, esatto, presa un po' demo, con questa voce. Esatto. Un po'... Tipo quelle che si usano nei navigatori, no? Sì. Esatto. Barillaro, se è che se la ride. Se quanto avete mandato in onda può dimostrare qualcosa, dimostra l'effettiva potenza di fuoco che in termini di marketing che hanno gli offerenti questo tipo di scommesse e prodotti travestiti da prodotti finanziari. In realtà c'è anche un problema di regolamentazione, il settore è regolamentato ma evidentemente non è regolamentato abbastanza, ci sono paesi come il Belgio ma come gli Stati Uniti che ad esempio vietano to court la proposta al pubblico, al retailer, all'investitore, bravo, privato, di prodotti addirittura non quotati, perché questi, ricordiamoci che sono prodotti non quotati su mercati regolamentati, quindi già l'investitore ponendosi in un tipo di spesa per acquistare questo tipo di prodotti si toglie da solo tutta una serie di tutele. E poi questo tipo di prodotti dipende sempre da chi sono offerti. La Consob fa un egregio lavoro di analisi ogni settimana sul suo bollettino cercando di capire e di segnalare soprattutto le imprese non autorizzate che offrono agli investitori italiani questo tipo di prodotti, ma ci sono anche imprese autorizzate che operano in Italia in libera prestazione dei servizi, e cioè sotto la direttiva europea mantengono la sede in paesi stranieri e semplicemente in Italia aprono un semplice ufficio di rappresentanza, che non vuol dire avere una succursale in Italia, vuol dire semplicemente avere un ufficio di rappresentanza, e ciò comporta che la vigilanza rimane comunque demandata su queste imprese di investimento e quindi offerenti questo tipo di prodotti, rimane demandata alle autorità straniere, alle autorità del paese di riferimento, che solitamente sono Irlanda, Cipro, Malta, quindi grande attenzione a chi propone questo tipo di prodotti, da dove viene, se ha le necessarie autorizzazioni, e soprattutto grande attenzione alla contrattualistica, ai contratti. Solitamente vengono offerti dei bonus, cioè versi 1000 ti diamo 10, 20 in più di bonus. Peccato che solitamente questi bonus sono legati poi a un obbligo a effettuare centinaia e centinaia di operazioni prima di poter ritirare il denaro versato, esatto. Quindi massima attenzione, perché il settore è regolamentato, ma probabilmente andrebbe regolamentato in maniera più stringente. Assolutamente. No, stavo una domanda per il dottor Marino, perché tu l'hai accennato, insomma, di ludopatia si parla poco, e anche la ludopatia come dipendenza viene vissuta socialmente come meno grave rispetto ad altre forme di dipendenza. Mi riferisco ad esempio a quelle legate a delle sostanze. Allora, il giocatore d'azzardo è socialmente più accettato rispetto a quello che ad esempio fa uso all'alcolista, oppure alla persona che fa uso di droga o alla dipendenza di tabacco, di cui noi parliamo spesso. Dottor Marino. Sì, c'è un po' l'idea, per lunghi anni c'è stata un po' l'idea che la dipendenza fosse un effetto di una sostanza, e quindi di fronte a una dipendenza immateriale in cui non c'è l'assunzione di qualcosa, di chimico, sembra quasi che sia un comportamento, come dire, meno grave. In realtà la dipendenza è costituita da una serie di modificazioni anche strutturali del nostro modo di funzionare, sia di carattere biologico che comportamentale. E potremmo dire che le persone che finiscono per sviluppare una dipendenza è come se ricercassero un surrogato ad altre forme di gratificazione personale. Quindi la componente legata all'individuo, alla persona, alla sua personalità, è una componente altrettanto importante del tipo di soluzione, del tipo di compenso che viene individuato. Quindi è inessenziale la presenza di una sostanza. Credo che però questo elemento di immaterialità faccia ritenere in prima battuta che si tratti di qualcosa di meno pesante. Meno pesante, meno pericoloso, meno grave. Sì. Allora, adesso noi andiamo a sentire con un po' di ritardo le informazioni sul traffico, ma Carmelo è sorridente, quindi. Allora, si ride tranquilli. Lui, pure noi. Cuore e denari. Allora, intanto volevo segnalare, lo diceva anche prima Luca Barillaro, che la Consob fa un grande lavoro per raccomandare attenzione contro le truffe finanziarie e c'è una pagina appositamente dedicata per esempio anche alle più recenti, richiamando un po' il famoso schema Ponzi di Bernard Madoff negli Stati Uniti, anche se qua parliamo di qualcosa di diverso rispetto alle opzioni binarie, che è il tema come dire, centrale di questa mattina. C'è anche la lista delle raccomandazioni su come difendersi dalle truffe sempre sul sito della Consob, però un'altra raccomandazione che sicuramente possiamo fare, frequentiamo con attenzione internet e frequentiamo con grande attenzione anche i social network, perché anche quello è diventato un terreno in cui queste informazioni circolano molto diffusamente. Marco dalla provincia di Vicenza voleva raccontarci qualcosa proprio a questo proposito. Sì, buongiorno. Niente, praticamente mi è capitato proprio su Facebook che c'era un'applicazione su queste opzioni binarie. Mm-hmm. Per curiosità, diciamo, mi sono iscritto con l'email, il numero di telefono. Al momento del contatto, diciamo, mi hanno chiesto €150 subito di così, deposito. In amicizia, certo. Sì. E ho detto, a sto punto già puzzava un po', e ho detto guarda non mi interessa, però hanno cominciato a tempestarla E hanno iniziato sì un po' a continuare a chiamare, diciamo, e dà un po' fastidio perché comunque visto che ho detto ok non mi interessa dovrebbe essere chiusa la situazione. Volevo solamente chiedere se una volta che loro iniziano a chiamare sono vincolato in qualche maniera o comunque non c'entra niente. Ma ci mancherebbe altro, Marco, l'importante è che lei non abbia dato nessun suo riferimento bancario e finanziario, dopodiché possono telefonare. Quanto ci telefonano da casa le compagnie telefoniche, le compagnie dell'energia, del gas per proporci, eppure iscrivendoci ai registri dell'opposizione non riusciamo a far nulla, per cui ci mancherebbe. Malverti, so che questo dei social network è pure un tema che ti sta molto caro, Enrico. Sì, poco fa il collega Barillaro sottolineava la potenza del marketing che gira attorno alle opzioni binarie. Ecco, perché c'è tutta questa capacità di fuoco, chiamiamola così? Perché c'è la complicità dei broker, di broker meno seri, con tante persone online che vengono chiamate introducing broker, detto in italiano è un po' come nel gioco delle tre carte, dove c'è il banco e c'è il complice che fa finta di giocare e di guadagnare ed attira l'incauto che passa da quelle parti e viene attirato e si mette a giocare pure lui. Il pesciolone di turno. Sui social network avviene la stessa cosa, ci sono decine e decine di persone che dietro la maschera dell'amicizia mostrano di guadagnare facilmente con le opzioni binarie, con queste scommesse ed attirano, chiamiamola nella trappola, tanti altri incauti risparmiatori. Quindi facciamo attenzione. Allora, detto questo, Marco era molto spaventato perché adesso teme di essere perseguitato per tutta la vita e di l'importante appunto, Malverti, non aver rilasciato nessun dato finanziario che ci riguardi. Detto questo, questi possono telefonare all'infinito, prima o poi si stuferanno anche di stalkerizzarci con la mail. Cambiamo indirizzo, non so quali. Un ascoltatore dice che può bloccare il contatto sul cellulare, che lui lo fa regolarmente con eccoci le compagnie telefoniche. Esatto, io sono più drastica, come tu sai, neanche rispondo più perché ormai li riconosciamo. Malverti, due parole per tranquillizzare il nostro ascoltatore. Sì, assolutamente, se non ha rilasciato dati della carta di credito, dati sensibili, può stare tranquillo e blocchi tranquillamente. Ci sono anche delle applicazioni che bloccano le telefonate, le classificano come spam e si può riuscire a tutelare la propria privacy anche in questo modo. Prima di concludere anche col dottor Marino, Enrico, allora il tema è si incappa in una truffa di questo tipo, magari abbiamo così bonificato 100 euro, 200, 1000. Abbiamo fatto questa sciocchezza, abbiamo capito che siamo incappati in una disavventura, che non guadagneremo mai nulla perché è sempre il banco a vincere, perché si tratta di scommesse vere e proprie, fino a quando addirittura ci sono dei casi in cui ci sono dei veri e propri truffatori. E queste situazioni si possono denunciare, solo che la persona che ovviamente, come dicevo prima, incappa in una disavventura di questo tipo molto spesso non sopporta neanche la vergogna e l'onta di denunciare, perché proprio perché se ne vergogna. In realtà, qual è l'interlocutore giusto anche per far uscire allo scoperto con le autorità queste situazioni? Sì, dietro a queste situazioni spesso si celano quelle che sono delle vere e proprie truffe. Il primo consiglio che occorre dare è di non bonificare nulla all'estero su broker che si trovano magari in paesi offshore, Cipro piuttosto che Cayman, eccetera, perché in quel caso diventa difficilissimo riuscire a recuperare le cifre investite. Denunciare sempre, comunque, se si pensa di essere vittimi di una truffa, alla polizia postale, se è una truffa online, se si tratta di broker, denunciare anche in Consob, gli organi di vigilanza. E un consiglio che posso dare è quello comunque di stare attenti a tutti quelli che millantano performance, risultati eccezionali, non consegnare le password dei propri conti correnti, perché un altro problema collegato è quello che viene chiamato della gestione surrettizia, cioè persone che si fanno consegnare denaro spiegando di essere in grado di essere bravi a fare del trading, a utilizzare le opzioni binarie, e poi magari bruciano i risparmi o scappano addirittura con la cassa. Quindi non consegnare le proprie password, dei propri conti online, non consegnare denaro, a maggior ragione in contanti. Questi sono i consigli proprio base da dare a tutti, in modo da poter evitare di incorrere in truffe che poi possono portare a grosse difficoltà a riuscire a recuperare le cifre. E per chi volesse saperne qualcosa di più, naturalmente può venirsi a fare un giro a Mirandola venerdì sera, appunto, a incontrare Luca Barillaro, Enrico Malverti, per a questo appunto incontro promosso anche dalle autorità, dall'amministrazione locale. Nicoletta, vogliamo chiudere sì, con... Sì, proprio una manciata di secondini, 30 secondi al dottor Marino, un'impresa, per dare un consiglio a chi si sente invischiato, ma dato che il giocatore patologico spesso nega, magari i familiari che vedono il proprio congiunto così in una situazione di rischio che poi trascina anche tutta la famiglia, qual è l'indicazione, dottore? Poi torneremo naturalmente. Affrontare apertamente il proprio familiare chiedendo dove vanno a finire i soldi, chiedere delle giustificazioni verificabili e, una volta accertata la presenza del problema, non vergognarsi, non isolarsi, ma chiedere aiuto ai servizi pubblici o anche alle associazioni di autoaiuto, in modo da poter essere aiutati a costruire la motivazione alla cura. Perché nelle dipendenze l'80% del lavoro consiste nel vincere la negazione e l'ambivalenza. Perché spesso la dipendenza, il comportamento di dipendenza è rimasto l'unico amico che è rimasto alla persona e quindi le persone fanno fatica ad abbandonarlo. Quindi parlare, evitare l'isolamento, avere il coraggio di denunciare e soprattutto la volontà di farsi aiutare. Grazie a voi tutti per l'ascolto, ringraziamo i nostri ospiti di oggi. Assolutamente, anche gli ascoltatori che naturalmente hanno avuto così la sensibilità di chiamarci questa mattina. Cuore Denari termina qua, domani ti lascio da sola io. Sì. Fai la brava, mi raccomando. Va bene. Ok. Cercherò di fare il mio meglio. Benissimo, io torno giovedì, intanto a tutti, buona giornata.